già. Quando io fanno della crema, perché te lascia? Io solo con un messaggio. E tutte son disto con me. Quando te caro muna, quello però non già. Faceva lo mantene. Che sta vita è lunga ma su vestite è curta. O destino è scritto già tutto. Se andas tu sorriso, che mi piccio muna san. Se mi disse la casa perché a me nessuno già te ne capivo. Se lo vuoi tutto trucca senza vecchio dubbio e guagnasse l'idea. Ma tutto sommato, tu curato, non riesci a stare. Non te vorrei, te sentivo e te volevo ca. Prima che sapeva, me sapeva, te ci stavamo cercando. Ma ancora non mi è chiaro come mi trovo. Così, quando stai tutta ingazzata, chi t'ha creata così, t'ha lasciata così, allora non t'ha già cagnato. Immagini se non film, ero chi se va bene, se fa pure poco poco male. Tu non dispone all'iPhone, tu fai solo una foto e poi metto una parte in social. Prima che più manicomio, prima che tu non da vodka, prima di pure fiducia, fatta prima non mi rione domande, da compagnia tutta casa. E mo salo da sto primo messaggi, ma che lo fui l'ultima volta, l'ultima sua sto prima ci saluto. Stai, non te vorrei, te sentivo e te volevo ca. Prima che sapeva, me sapeva, te ci stavamo cercando. Ma ancora non mi è chiaro.